22 e 54 minuti primi, le frequenze di Radio Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale, nonché in DAB. Dalla provincia di Terni. Nonché andando sul sito di Onda Rossa www.ondarossa.info, su tutti i link che rilanciano lo streaming della radio. Comunque è importante che facciate una visitina ogni tanto al sito della Radio 1, perché ci trovate tutti i podcast che vi siete persi, delle trasmissioni in diretta che vi siete persi e perse. Ci trova delle comunicazioni importanti che la radio mette in evidenza sulla colonna a destra dello schermo. Ci trovate nella fattispecie attualmente. Comunicazione per il sostegno, per il finanziamento delle spese locali per gli antifa che sono rimasti vittime della repressione in Ungheria, nella contestazione fatta da tanti e tante militanti europei antifascisti, antifasciste che erano andati a Budapest per contestare il giorno dell'onore, insomma. Solo per come si chiama, insomma, questa celebrazione andrebbe osteggiata in tutti i modi. Per non parlare dei brutti figuri che ci partecipano e dei contenuti che professano. Contenuti è un parolone, Le sciocchezze. E poi ci trovate invece bella mostra, il banner per il radioabbonamento di Giror 2024. Ci siamo, vediamo che pian pianino aumenta l'ammontare delle sottoscrizioni, ma vi esortiamo a contribuire per la radio, chi non l'avesse ancora fatto, attraverso appunto il radioabbonamento di Giror 2024. Le tazze ormai se le siamo giocate, questo insomma mi pare scontato e ovvio. Se volevate la tazza siete arrivati tardi, comunque. Una bella e buona sottoscrizione per Radio Onda Rossa vi regala una Radio Onda Rossa per tutto l'anno, anche nei mesi più e nei giorni più sfigati, o forse proprio soprattutto nei giorni più difficili per tutti e tutte. poi c'è anche una breve sinossi della festa di Radio Onda Rossa, poi avremo modo magari di raccontarla più in esteso tutta quanta, il programma della festa 24, 25, 26 maggio 2024, 47 anni libera e ribelle nell'etere Radio Onda Rossa. Minuti primi, Onda Rossa, e da Cabani the Car ci arriva, infatti, anzi vi arriva fra capo e collo, questa nuova produzione, nuovissima produzione per quanto riguarda Roberto Falconieri. Lo abbiamo conosciuto qua negli studi di Radio Onda Rossa, che ha presentato il suo lavoro. Un paio d'annetti fa, due anni e mezzo, boh, non ci ricordiamo esattamente quando. E queste sono le sue due nuove produzioni, I Need a Car. E Cocopile, che andremo ad ascoltare fra breve. Nel frattempo vi ricordiamo appunto che siete all'ascolto di Onda Rossa 87.9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, che il sito è www.ondarossa.info. Non ve l'avevamo detto che i contatti della radio sono quelli dei social, ma ancora più importante quello della nostra mail ondarossa@ondarossa.info. Se invece volete contattare lo spazio che state ascoltando, 25 o'clock 25, scritto al numero clock@ondarossa.info, per insulti o sottoporci quelle che sono le vostre proposte musicali e non solo. Ma ancora più importante, 0649175050, il recapito telefonico di Radio Indorossa nel 1977. Noi siamo qua. E tra l'altro la smettiamo fra poco di lanciare, e appunto ci sentiamo adesso Coco Pili, Roberto Falconieri 2024. E poi credo che più o meno ci risentiremo alla fine, eh. Dai. Matching with your partner's next to city hot. The kitten is a woman as you go back with suburban trees, suburban street. And it smells like heaven, you know. We'll be right back. But the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Composure is well kept, I guess he fears playing the fool. The present students sit and listen to that bullshit that he learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it, then we hang from it. Gotta get it, put the rhythm in. Like a motherfucking rhythm in. Expose and close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. We gotta take the power back. Boris, guarda questa foglia. Non è perfetta. E questa? Guarda. Oh, sì. Sì, sono convinta che questo è il migliore dei mondi possibili. Beh, certo, il più costoso. Non è incredibile la natura? Per me la natura è, sai, non lo so, i ragni, le cimici e il pesce grosso che mangia il piccolo e le piante che mangiano altre piante, animali che mangiano... È un enorme ristorante, così la vedo. Sì, però se Dio l'ha creata, deve essere bella, anche se il suo piano non c'è chiaro per il momento. Sonia, e se Dio non esistesse? Boris Dimitrovich, stai scherzando? E se fossimo solo un branco di gente assurda che corre intorno senza nesso o ragione? Ma se non esiste Dio, la vita non avrebbe alcun significato. Perché dovremmo continuare a vivere? Perché allora non suicidarsi? Beh, non facciamo gli isterici, potrei sbagliare. Io oggi mi uccido e domani lui concede un'intervista. Boris, ti dimostro com'è assurda la tua posizione. D'accordo, diciamo che Dio non c'è, ogni uomo è libero di fare tutto quello che vuole. Beh, e allora chi ti impedisce di ammazzare qualcuno? L'omicidio è immorale. L'immoralità è soggettiva. Sì, ma la soggettività è oggettiva. Non negli schemi percettivi e razionali. La percezione è irrazionale, implica imminenza. Ma il giudizio di ogni sistema o relazione prioritaria dei fenomeni esiste in ogni contraddizione razionale o metafisica o almeno epistemologica, per concetti astratti ed empirici come esistere o essere o accadere nella cosa stessa o della cosa stessa. Sì, questo è vero, anch'io lo dico sempre. Boris, noi dobbiamo credere in Dio. Potessi vedere un miracolo, solo un miracolo, un passaggio del Mar Rosso o una resurrezione o mio zio Sasha offrire un pranzo. Non ci resta che tornare di sotto. Già ora gli ultimi raggi dorati del tramonto stanno dileguando oriente dietro le verdi colline. La scura coltre della notte presto si stenderà su noi tutti. Ehi, si sente che hai fatto ragione. Trials whose outcomes all fixed from the start. Nine judges sitting counting their money in the dark. Eight towers of iron surround the desert town. On a cold December morning, seven martyrs knock them down. Forefathers still waiting for their five sons to come home. Six mothers who know better and accept that they're gone. 4 years I've been hunted, still I breathe free. Three times I shot the sheriff and did not spare the deputy. Two prayers I'm praying until we're together. One promise I'm keeping tonight and forever. I'll never turn, I'll never bend. I'm with you now until the end. I'll never turn, I'll never bend. I'm with you now. Till the end. Thank you. Coraggio! Vinci, maestro! Vinci qualcosa! Andatevene via! Ciao, Benedetto! Ciao, Benedetto! E come dobbiamo andare via, maestro? Ma che ne so, basta che ve ne andiate, che ne so! Dacci un segno! Ma ce l'ha già dato il segno! Ci ha portati in questo posto! Non vi ci ho portati io, siete voi che mi siete venuti dietro! Oh, è sempre un buon segno, comunque lo guardi! Maestro, il tuo popolo ha camminato molte miglia per stare con te, sono stanchi e non hanno mangiato! Non è certo colpa mia se non hanno mangiato! Non c'è cibo in questa montagna desolata! Beh, ci sono dei cespugli di ginepro laggiù! Oh, miracolo! Miracolo! Ha riempito di frutti quei cespugli! Soltanto con hanno generato bacche di ginepro! Avete visto? Certo che hanno generato bacche di ginepro! Sono cespugli di ginepro! Che vi aspettavate? Dai, un altro un errore! E sto perdendo tutti i capelli! Pietro! Sono guarito! Il maestro mi ha guarito, fratello! Io non l'ho toccato! Sono cieco! E ora ci vedo! Miracolo! Miracolo! Dille un po' di smetterla! Erano 18 anni che non aprivo bocca finché non è arrivato lui! Miracolo! È lui il Messia! Mi ha anche pestato un piede! Pestaci un piede, signore! Pestacelo! Povero Messia! Non sono il Messia! Tu sei il Messia e io me ne intendo, ne ho seguiti parecchi! Povero Messia! Io non sono il Messia, volete stare a sentire? Non sono il Messia, mi avete capito? Lo giuro su Dio! Soltanto il vero Messia nega la sua divinità! Che cosa? Ma così state cercando di incastrarmi? Va bene, allora sono il Messia! È lui il Messia! E adesso andate a fanculo! Quale via ci consigli, oh signore? Oh, come vi pare, lasciatemi in pace! Tu hai detto a questa gente di mangiare le mie bacche! Mi hai quasi spezzato un piede, hai rotto il mio voto del silenzio e adesso cerchi anche di fregarti le mie bacche di ginepro! Questo è il Messia, è il prescelto! Ma quale Messia? No, un fermo! Un miscredente! Un miscredente! Cosa ci fa? Questa mia condanna che mi chiamano Milano, ma fammi di un cane si non magna roba un po' di me. Sacce sulle dicere che bot voglia sci. Sacce sulle dicere che bot voglia sci. Cosa ci fai qui? Cosa ci faccio qui? Cosa ci fate voi qui? Cosa ci facciamo tutti sulla Terra? Mi pare che Jean-Paul Sartre... Come si scrive Sartre? Ai! A che vi serva direzione? Se non ti decidi a parlare, per ogni minuto che passa, io taglierò un dito. Mio o tuo? Tuo. Oh, cavolo. Ah! E che ti picchi tu? Già c'è lui che vuole tagliarmi le dita. Hai solo 30 secondi. Eh sì, ma ho anche solo 10 dita. Comunque quel film, devo dire che era tremendo. A me mi ha veramente impaurito. Ma senti, se a te ti torturassero come a quello del film, avresti parlato? Per carità, cioè, a me non c'era nemmeno bisogno di mi torturare. A me basta che dicevano solamente, per esempio, guarda che se non parli forse ti torturiamo. Cioè, immediatamente parlava, scriveva, cioè se non capivano facevano un disegno. Ma allora sei peggio di Giuda. No, che c'è, è proprio che io per esempio il dolore fisico non sopporto proprio, è una cosa che... E poi che c'è, cioè Giuda? Ma tutto quanto, Giuda è traditore, cioè se conosce prima i fatti, Giuda avrà avuto una ragione per fare una cosa del genere, no? No, per soldi. Per soldi? Non è una ragione, scusa. Basta che facevano nascere ricca e già si evitava tutto sta moina, sta cosa, l'uccisione, il tradimento, ecco, lasciamo sta. Cioè perché quando uno non conosce la gente, mi piace giudicare, capite? Perché mette, sai, tu per esempio hai bisogno proprio, a un certo punto si 30 denari, quando potevano essere, mettiamo 200-300 mila lire, 400, non so. Però chi l'avrà messo a posto che cose sono? Perché mi è per esempio che gli va a casa, la moglie ogni volta, Giuda, tu devi andare a lavorare, Giuda, padrone di casa, la luce, l'acqua, il dito, il telefono, a un certo punto chiede tutte queste cose, tu non puoi più essere da casa, non puoi più essere da casa, sai se hai 30 denaro in mano, hai detto, ma come non importa, come metto a posto la famiglia, per dire. Vabbè, senti, perché non lo racconti anche a Marta? Così scrivo un romanzo. Cioè, appena torna glielo racconto. Ah, zio vero, pensavo che era ornamentato. Oh, pure questo. Venga qua, io sto... Tu che devo fare è caduto, sei pure difficoltoso. Io? Sei difficoltoso. Perché sennò Marta teneva un posto... Cioè, da un bottino a fatica. We'll be right back. Abbiamo ricevuto l'ultima spedizione di penicillina? No, ancora no. La manderanno domani, quando arriveranno i due inviati. Ah, eccoci qua. Io sono Hedley, medicina interna. Il dottor Lafong, malattie infettive. Il dottor Boyer, batteriologia. E i dottori Stinson, Marston e Gill dell'Istituto di Traumatologia di Northampton. E il dottor Imaus del Fondo Assistenziale di Zurigo. Ecco finalmente i nostri chirurghi, il dottor Traubridge e Greenbaum. Dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, dottore, e dottore. Beh, ne abbiamo saltato qualcuno. Perché non andate a riposarvi, signori? La tribù ha in programma per domani un attacco a una divisione di carri armati sovietici. State certi che il lavoro non mancherà. Dottori? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Dottore? Lucia! L'assassinio politico non funziona. La violenza genera violenza. Chi di spada ferisce, di spada perisce. Beh, ho finito i luoghi comuni. Che cosa suggerisci? La resistenza passiva? No, io suggerisco la fuga attiva. Ma non puoi fuggire per tutta la vita. Lo so, ma è omicidio, il più sporco di tutti i crimini. E non l'omicidio astratto, sparando una fucilata ad un nemico ignoto sul campo di battaglia, ma stando dentro una stanza con un altro essere umano, premendo il grilletto faccia a faccia. E un famoso essere umano, uno che ha successo, uno che guadagna molto più di me. Mio Dio, pensate, Napoleone, ma quello prende almeno 10.000 franchi al mese, al minimo, senza le mance, gli extra e robe del genere. Ma io chi sono? Lui è un grand'uomo, ha un cervello come Superman, e io invece sono un verme, un insetto, una specie di parassita schifoso, strisciante e nauseabondo. Potresti interrompermi? Lo farò quando dissento. Oh, Sonia, chi siamo noi per uccidere qualcuno? Boris, per la prima volta in vita mia mi sento libera, senza peso. Ho un esilarante senso di libertà umana. Si chiama ghigliottina. Oh, guarda, Boris, guarda il tenero dorato crepuscolo che già si trascolora nella coltre bruna della notte spruzzata. Attenta, la pistola può essere carica. Oh. I'm gonna be free. gesto. Una mappa. Una mappa. Lì, ti sei sdraiato sopra il tuo paese. Il mio paese. Il mio paese siamo io e i miei figli. Ah sì, lo so, ma il tuo paese è anche Huerta. Il governatore, i latifondisti. Monterresa con le sue cavallette. E questa rivoluzione, che non è uno scherzo. Rivoluzione? Rivoluzione, per favore, non parlarmi tu di rivoluzioni. Io so benissimo cosa sono e come cominciano. C'è qualcuno che sa leggere i libri, che vada a quelli che non sanno leggere i libri, che poi sono i poveracci, e gli dice, oh, è venuto il momento di cambiare tutto. Schifo! Io so quello che dico, ci sono cresciuto in mezzo alle rivoluzioni. Quelli che leggono i libri vanno da quelli che non leggono i libri, poveracci, e gli dicono, qui ci vuole un cambiamento, e la povera gente fa il cambiamento. E poi i più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo e parlano, parlano e mangiano, parlano e mangiano. E intanto che fine ha fatto la povera gente? Tutti morti! Ecco la tua rivoluzione. Per favore, non parlarmi più di rivoluzione. E porca troia, lo sai che succede dopo? Niente! Tutto torna come prima! presto. Più presto noi consumiamo l'atto amoroso, più soddisfatto io sarò. Don Francisco! Su, spara! Metta giù quella pistola, la ragazza è maggiorenne. Lei è un tiranno e un dittatore e dichiara guerre. Per quale ragione stai elencando i miei meriti? Uccidi! Guardie! Boris, non siamo qui in vacanza. Ma non posso ucciderlo, è un essere umano, macchierà tutto il tappeto. Dammi la pistola. Ecco, vedi, non è tanto facile. Ma perché? Perché non posso farlo? Perché è moralmente ingiusto. Ah, sì? Perché moralmente ingiusto? Eh sì, perché comporta un imperativo morale. Beh, ma dov'è l'imperativo morale? Vedi, uccidendo Napoleone, in effetti uccidi te stesso, perché noi siamo coinvolti in una sorta di assoluto totale. Oh, dai, non c'è un totale assoluto, sei di nuovo panteistico. Come panteistico? Come panteistico? Siamo tutti universalmente parte di un'unità gigantesca. Oh, dagli un'altra botta che sta rinvenendo, sì, solo un altro colpo. Sì, brava. Vedi, c'è una questione etica qui. Oh, via, Boris, non mi citerai ancora Tommaso d'Aquino. Certamente, diceva, mai uccidere un uomo se questo comporta togliergli la vita. Cosa fai? Non capisci? Se non lo fermiamo, questo incendierà mezza Europa. Beh, potrebbe incendiare la metà dove è il nostro padrone di casa. Boris, per i nostri bambini. Non abbiamo bambini. Per i nostri genitori. Neanche loro hanno bambini. Beh, allora torno indietro e lo uccido io. Sonia! Lo uccido. No! Va bene, senti, fa manovra con la carrozza. Lo uccido io. Guardalo. Se io non lo uccido, farà la guerra in tutta l'Europa. Ma ammazzare? Che cosa direbbe Socrate? Quei greci tutti omosessuali. Ragazzi, chissà che feste pazzesche. D'estate avranno avuto tutti la ragazziera a Creta. A. Socrate è un uomo. B. Ogni uomo è mortale. C. Ogni uomo è Socrate. Quindi ogni uomo è omosessuale. Beh, io non sono omosessuale. Beh, sì, una volta alcuni cosacchi mi fecero dei fischi dietro. Io ho quel tipo di corpo che eccita, beh, ambo i sessi, ma ci sono uomini eterosessuali e uomini bisessuali e uomini che non pensano affatto al sesso e allora fanno l'avvocato. Il mio problema è che io vedo sempre i due lati di ogni problema. Sono troppo logico, sapete? Il mondo non è logico. Se fosse logico, come farebbe il vecchio Grigori a essere più giovane di suo figlio? Io sentivo che era pazzesco quando ero bambino, ma appena aprivo bocca era una sberla e allora... è che ho sempre un senso di colpa tremendo e sono consumato dal rimorso e squassato dalle sofferenze per la razza umana. Non solo questo, ma mi sta venendo un bollicino dentro il labbro, poi che mi dà una noia tremenda. all'ordine del giorno. Conseguimento della supremazia mondiale entro 5 anni. Ah, Francis, tu hai fatto delle ricerche, no? Sì, grazie, Reggie. Francamente, fratelli e sorelle, trovo che 5 anni siano utopistici. A meno che non spappoliamo l'impero romano entro i prossimi 12 mesi. 12 mesi? 12 mesi. E parliamoci chiaro. In quanto a imperi, questo è il più grosso. Quindi dobbiamo alzare subito le chiappe e smetterla di fare discorsi e basta. Bravo, bravo, Benedetto. Benedetto. Sono d'accordo, è l'azione che conta, non le parole. Dobbiamo agire adesso. Bravo, Benedetto. Hai ragione, possiamo anche starcene qui tutto il giorno a parlare, votare mozioni, fare bei discorsi, il che non sposterà un solo soldato romano, punto. Quindi facciamola finita con le chiacchiere, sono assolutamente inutili e non ci porteranno da nessuna parte. Bravo, Benedetto. Sono d'accordo, sono una totale perdita di tempo. Hanno arrestato Brian. Che cosa? Lo hanno trascinato via! Lo vogliono crocifiggere! Bene, questo richiede una discussione immediata! Sì! Che cosa? Immediata! Giusto, nuova mozione? Completamente nuova! Sì, per decidere, un'azione immediata? Una volta che avremo votato... Ma mi sembra ovvio, che... non si può passare all'azione senza prima aver approvato la mozione! Reggie, per l'amor del cielo, dobbiamo andare, sì, certo. Alla luce delle notizie fresche riferite da sorella Judith... Judith! Corri troppo, Reggie! Per l'amor di Dio! Non complicate quello che è semplice! Tutto quello che dovete fare è uscire da quella porta adesso e cercare di impedire ai romani di inchiodarlo alla croce! Sta già accadendo! Non capisci che sta già accadendo, Reggie? Non ti c'entra in testa! Non ti c'entra in testa? I soliti isterismi delle femministe. Cosa? No, scusa, Loretta. Scusa, sorella. Vuoi rileggere, per favore? Sì. Bene, la mozione di venire al dunque è stata approvata con una sola astensione. Io propongo di andare senza ulteriori indugi. Posso avere un sostegno? Andiamo e basta. È davvero una situazione molto complicata, cugina Sonia. Sono innamorata di Alexi. Lui ama Alicia. Alicia ha una relazione con Lev. Lev ama Tatiana. Tatiana ama Simkin. Simkin ama me. Io amo Simkin, ma in modo diverso da Alexi. Alexi ama Tatiana come una sorella. La sorella di Tatiana ama Trigorian come un fratello. Il fratello di Trigorian ha una relazione con mia sorella che gli piace fisicamente, ma non spiritualmente. Natasha, è già tardino. La ditta Mishkin e Mishkin va a letto con la ditta Taskov e Taskov. Natasha, amare è soffrire. Se non si vuol soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non amare. Pertanto, amare è soffrire, non amare è soffrire, e soffrire è soffrire. Essere felice è amare. Allora essere felice è soffrire, ma soffrire ci rende infelici, pertanto per essere infelici si deve amare, o amare il soffrire, o soffrire per troppa felicità. Io spero che tu prenda appunti. Io non voglio mai sposarmi. Io voglio solamente divorziare. Sistematevi lo studio. Your ice cool menthol kissing snake like. Took your tired-off singer's voice up to her bones, her skin, her face, and all the things you could embrace. You wanted something more than this. You wanted something more than. You crashed her body lip by lip by bloodline. Crawled through deserts and searched the forest floor to know and feel and taste each place and all the thoughts you could embrace. You wanted so much more than this. You wanted so much more than. You are naked underneath your skin, you're naked. You are naked underneath your. Ora dipende da te e dipende da me. Se la vuoi motta, non ti fa male, vieni pure avanti. Lascia che ti spieghi. Non c'è niente da spiegare. Tu vorresti rapire quello che io legalmente rubai. Potremmo raggiungere un accordo, magari. Cioè, a noi non ci sarà nessun accordo. Sei tu che la stai uccidendo. Se non c'è possibilità di accordo, siamo in un vicolo cieco. Temo proprio di sì. Io non posso competere con la tua forza. E tu non puoi competere con mio cervello. Ne hai così tanto. Stammi bene a sentire, tu sai che sono Platone, Aristotele, Socrate? Sì. Teste del rapa. Davvero? Allora vorrei sfidarti a un duello di intelligenza. Per la principessa? Ottimo sangue? Mezzica che idea! Bene, verso il vino. Annusa questo, ma non toccarlo. Niente, sento. Questa sostanza si chiama polvere di ocaina. È in odore, in sapore, si scioglie all'istante nei liquidi ed è uno dei più potenti veleni che esistano al mondo. Allora, dov'è il veleno? Il nostro duello è iniziato. Quando tu deciderai, berremo tutte e due e vedremo chi avrà ragione e chi sarà morto. Ma è molto semplice. Tutto ciò che devo fare è indovinare da quello che so di te se tu sei il tipo che metterebbe il veleno nella propria coppa o in quella del nemico. Ora, un uomo d'ingegno lo metterebbe nella propria coppa, perché solo un idiota prenderebbe quella che gli è stata messa davanti. E io non sono un idiota, perciò non posso scegliere il vino che hai davanti tu. Ma tu dovevi saperlo che io non sono un idiota. Ci avrai contato. E quindi non sceglierò il vino che sta davanti a me. Hai deciso qualcosa? Ma neanche per sogno. Perché la cocaina viene dall'Australia, come tutte sanno. E l'Australia è interamente popolata da criminali. E i criminali di solito non hanno la fiducia di nessuno, come tu non hai la mia. Quindi non potrai mai scegliere il vino che sta davanti a te. Hai un intelletto davvero sconvolgente. Io sono soltanto all'inizio. Dove ero rimasto? In Australia. Ah, l'Australia. E tu avrai sospettato che io conoscessi le origini del veleno, quindi non sceglierò mai il vino davanti a me. Stai guadagnando tempo. Se ti va di crederlo, accomodati pure. Hai battuto il mio gigante, il che significa che tu sei molto forte. Perciò avresti potuto mettere il veleno nella tua coppa, contando sulla tua forza per salvarti. Quindi non posso scegliere il vino che sta davanti a te. Però hai anche fatto fuori il mio spagnolo, il che significa che tu hai studiato. E studiando avrai imparato che l'uomo è mortale. Quindi avrai messo il veleno il più lontano possibile dalla tua persona. Quindi non posso scegliere il vino che sta davanti a me. Stai cercando di fare in modo che io mi tradisca. Non ci riuscirai. Ci sono già riuscito, tu mi hai fatto capire tutto. Io lo so dov'è il veleno. Allora scegli. Certo che scelgo, e scelgo... Che diavolo sarà mai quella bestia laggiù? Cosa? Dove? Io non vedo niente. Ma non capisco, avrei giurato di aver visto una bestia, non importa. Che cosa hai da ridere? Te lo dirò tra poco. Io ora, amico, beviamo. Io berrò dalla mia coppa e tu dalla tua. Hai sbagliato. Lo dici tu che ho sbagliato? Per questo ridevo. Ho cambiato le coppe mentre tu eri votato. Ah, pezzo di idiota. Hai commesso uno degli errori più madonnali. Il detto più famoso è: mai andare a vendere i tappeti ai persiani. Ma uno quasi altrettanto conosciuto è questo: mai mettersi contro un siciliano quando si tratta di uccidere. Chi siete voi? Uno che non scherza. Non devi sapere altro. Pensare che il veleno stava nella vostra coppa. Stava in tutte e due. Ho passato gli ultimi anni a sviluppare l'immunità alla polvere di cocaina. We'll be right back. flask, let the water work its magic as I come around. All infinity rise before me, dedicate me to the great horizon. All infinity rise inside me, dedicate my life to your lives. Bury my tomes that they may remind me of all the great mysteries I've seen in these eyes. My wedding snaps, my muse, my memory, luxury riding in your Yankee car. All infinity rise before me, dedicate me to the great horizon. All in favor of poetic tradition, dedicate my life to your lives. Muslims and Christians, they sacrifice youth on their altar of death. The imam sends rucksacks, instructions and fatwa. The youth sees her lamb dispatched to the abattoir. The pope preaches pain here, only hope in his next world. None but infamy lies before him. Stranded at the gateway between hell and St. Peter, with their abject cries, he can only apologize. Say farewell, for I must now cross over into darkness. Let there be no recriminations, and let there be no distance between us. All infinity rise before me, dedicate me to the great horizon. All infinity rise inside me, dedicate my life to your lives. Oh, I can remember this life. I can remember this life. I can remember this life. 3 minuti dopo la mezzanotte. Ritorniamo in voce Radio Onda Rossa. Thunder, 87,9 della modulazione di frequenza della banda romana e laziale, vi ricordiamo. Il radioabbonamento. Di abbonamento di Giror 2024. Andate sul sito della radio www.ondarossa.info. Radio abbonamento è importante, ma ancora più importante per noi è invece rinnovare anche il contatto fisico, l'essere di persona, il vederci, l'incontrarci. Parlare, verificare, criticare. E per questo c'è la festa di Radio Onda Rossa 24, 25 e 26 maggio 2024. Da 47 anni libere, ribelle, nell'etere, la radio. Il 24 maggio appuntamento a Via dei Volsci 56 sotto la radio per i festeggiamenti del compleanno della radio, che cade proprio il 24 maggio di ogni anno. 25 maggio e sabato invece al centro sociale occupato del gestito ex Snia Viscosa, concerti e DJ set. E il 26 maggio domenica sempre alla Snia. Dibattiti e reading, avremo modo di comunicarvi in maniera più estesa, già qualche compagno e compagna della redazione stanno producendo in questa abilità. Il programma dettagliato della tre giorni della festa di Radio Onda Rossa. Oretta e 20 circa avete ascoltato quindi Roberto Falconieri, e questo ve l'avevamo annunciato con Coco Pele. E I Need a Car. E poi di seguito Rage Against the Machine. I wanna break it down. I want a wall of tears. The My Watchmen, 24 grana, palcoscenico al Neon, And Some, Unsane, Fagged Up, due tracce, Side, Japan Cake, Velester, Unsophisticated, Julian Cop e ora Underworld sotto la nostra voce. Programmazioni in diretta di Radio Onda Rossa finiscono con noi. Vi lasciamo in compagnia della compagna automatica suonata che vi terrà svegli e sveglie tutta la notte con le sue repliche delle trasmissioni andate in diretta durante il palinsesto ordinario di Radio Onda Rossa e con le sue bizzarre selezioni musicali. Si riprenderà domani mattina con la lettura delle prime pagine, la rassegna stampa cittadina e redazionali del giovedì mattina dalla città e dal resto del mondo. Da dalle 13 alle 14 una prima replica, alle 14 alle 15 tutta scena cinema, dalle 16 alle 17 Attica Blues oltre alla Black Music, dalle 17 alle 18 e 30 alla Schiena del Sol. Almeno così recita il palinsesto, alle 20 alle 21 e 30 Tabula Rasa, la trasmissione sui libri della Onda Rossa, e alle 22, molto larghe, quasi 23, vanno in onda i Cuginetti di Apostasia. Minuti dopo la mezzanotte, il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro e a tutte e tutte quelle che sono costrette a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la latitanza, la clandestinità, gli arresti domiciliari, i centri di detenzione per migranti e anche tutte le imposizioni amministrative che comunque vanno a limitare le proprie libertà. Mentre il mondo, o meglio, il mondo fino ad ora conosciuto, quello dell'Occidente, flippa via, e quello nuovo avrebbe bisogno di una nuova, grande, forte rivoluzione dal basso, noi ce ne andiamo sotto la luna comunista. Ci sentiamo mercoledì prossimo, forse anche con un po' d'anticipo, dato che non andrei in onda. Prove tecniche di trasmissione. Bella a tutti e a tutte, ci risentiamo mercoledì prossimo, dai. Times comes right.